Vorrei descrivere la morale di ogni avvenimento e cosa e qualunque evento che aiuti ad attraversarlo con successo. Abbiamo navigato giorno e notte con le nostre forze, senza troppe soste, con l'aiuto del vento più forte. Mi riprendo solo quando so quello che seguo, quando so quello che vedo, perché so di fare sul serio. Educazione musicale non rimane nell'affare che puoi fare. Quando c'è stile il prezzo scompare. Prendo fiata in cui su muri troppo ripidi, al fine di iniziare un lavoro che riesca a darti i brividi. Sostieni questo tempo, alza le mani a tempo. Ora sei di essere emerso dalla strada che intraprendo. Da diversi anni porto avanti con affanni, scendo a controllarmi come fanno i marinai più grandi. Yeah. Alia Mac, Batten Z, morale della favola, tempi trascorsi in alto mare. Alto il nostro mare. Ed è bello aprire porte così sconosciute e scoprire veri venti di rotta. Sì, ecco. Al momento giusto. Meno sento che è il momento, entro nell'intro. Un gioco un po' pericoloso per chi non è convinto, ma risulta stiloso. Se ne fa un principio, prima raffica, morale della favola utopica. Ma caccia, metodi musicali con produzioni sacre, più argomenti che nascono dalle strade. Yes, sì, che a galla ci si può stare. Non è difficile, basta mantenere stabile. Il contatto messo in atto dalla Toscana. Da chi ne viene fuori non me le ingrana. Da chi sta dentro e fa figlio di puttana. Don't stop, my style.